Allô les amis, benvenuti e benvenute alla 12esima tappa di Extra Extra. Oggi fa un caldo boia, non c'è un filo di vento e quindi registro all'aperto. Spero che le cicale non ci disturbino troppo. Avrei voluto parlarvi di grotte, avrei voluto parlarvi di graffiti in questa giornata, ma se ne è parlato già tanto e soprattutto credo che valga la pena ancora una volta, scusatemi se sono ripetitivo in questa rubrica, ma andare a guardare insieme la volata. Perché è stata una volata particolare, è stata una volata completamente diversa rispetto all'ultima che ho commentato in questa rubrica, che era quella di Saint-Armand-Montron, quel capolavoro dell'Alpecin che andava applaudito assolutamente. Questa volta abbiamo l'opposto, abbiamo una volata molto brutta, molto caotica, con tanti errori, ed è quello che capita spesso, non sempre, quando gli sprint avvengono, diciamo, senza squadre che prendono in mano la situazione. Una squadra però mancava ed era appunto la Alpecin e vale la pena quindi prenderla un po' da lontanissimo questa volata, no? Perché sono successe tante cose nella prima parte di tappa o comunque precedenti allo sprint. E forse un momento chiave è proprio nella prima parte di tappa quando cade Jonas Rickard, che è un uomo fondamentale del trenino dell'Alpecin. Rickard che si trova da solo già da lontanissimo e che poi è arrivato al traguardo in enorme ritardo insieme a Fedorov e dai meno 30 insieme anche a Søren Kragh-Andersen, altro compagno di squadra, non un uomo del trenino dell'Alpecin, ma un uomo che comunque svolge un ruolo molto importante nella preparazione delle volate, ovvero quello di portare avanti gli uomini nel finale e di tenere alta la velocità. Quindi c'è questa dinamica strana in cui la fuga non è andata controllata, diciamo, da un gran lavoro degli Alpecin, ma poi gli Alpecin, i pochi che sono rimasti, erano spossati dall'inseguimento e gli altri non c'erano per aiutare nella volata, non c'era soprattutto la maglia iridata di Mathieu Van Der Poel, che è rimasto attardato nella caduta che tutti avete visto, e quindi si arriva a una volata senza governo. Come dicevamo, ci sono tanti errori, c'è una squadra che come sempre vediamo in queste fasi, c'è un uomo che sempre vediamo in queste fasi ed è la maglia Pua Abrahamsen, che lui deve fare sempre la sua tirata prima delle volate, e oggi c'è talmente lassismo, diciamo, nonostante si vada ad alta velocità, ma non altissima evidentemente, che Abrahamsen tira il gruppo ininterrottamente dai meno 2,7 ai meno 1,5, questo per definire la volata che ci apprestiamo a guardare. Partendo immediatamente dal momento chiave. Il momento chiave è poco dopo l'ultimo chilometro. La strada si restringe prima e poi si riallarga. Credo che ci fosse una di quelle situazioni in cui il marciapiede viene allargato per fare una fermata dell'autobus. E così questo arredo urbano fa sì che ci sia questo restringimento e questo riallargamento. Nel riallargamento si apre la strada, chiaramente. Si aprono due fasce laterali, una a sinistra, ed è quella in cui si butta immediatamente Philipsen con Cavendish a ruota, e l'altra a destra, di cui ne parleremo tra un attimo quando ci focalizzeremo su uno dei protagonisti di questa giornata, che è Wout van Aert. Stiamo su quella sinistra perché questo è il momento chiave. Perché quando si lancia Philipsen, Cavendish sta subito alla sua ruota, ha deciso di stare dietro a Philipsen nonostante non ci siano gli Alpecin. Poco più indietro, un paio di posizioni indietro, ci sono due uomini dell'Intermarché. Il secondo di questi è Binyang Girmay, il primo non sono riuscito, perdono, a riconoscerlo, io faccio pietà quando c'è da riconoscere i corridori in queste inquadrature in cui sono tutti uguali, e potrebbe essere Tessen o potrebbe essere Tönnissen, ma potrebbe anche essere qualcuno che non è nessuno dei due. In quel momento Binyang Girmay si accorge di questa fase della corsa, si accorge che sta succedendo qualcosa di utile a quello che loro vogliono fare, ovvero trovarsi davanti e vincere la tappa, stacca il braccio dal manubrio, dà una pacca alla chiappa destra del suo compagno per dirgli muoviti, prendiamolo questo passaggio, perché questo è un momento in cui ci ritroviamo a giocarci la volata. Capacità di lettura della volata di Binyang Girmay in questo momento 10. E sarà fondamentale perché a destra invece c'è un corridore della Jayco che prova a partire, riprende una dozzina di posizioni, rilancia di nuovo, e quando rilancia gli vanno dietro Wout van Aert e John Degenkolb, ed è il momento in cui forse Van Aert perde la volata, perché con un tentativo così lungo chiaramente il Jayco si spegne e Van Aert si trova intruppato. Era dietro prima e poteva in un qualche modo sperare di risalire, così facendo si intruppa da solo contro le transenne, tanto che poi la volata si accende e abbiamo visto la tanto discussa azione di Arnaud Démare, che fa uno scarto verso destra, nel suo scarto verso destra porta in transenna chiaramente Wout van Aert, ma porta in transenna anche praticamente mezzo gruppo, perché con Van Aert ci sono Christoph Ackermann. Gaviria è quello che rischia più di tutti di cadere. De Mar è partito anche un po' presto, secondo me, perché ha sentito Van Aert che lo stava sopravanzando e probabilmente distinto si è spostato leggermente. Una squalifica che ci può stare, come non ci può stare, non mi metto a giudicare troppo su questa cosa, ma osservo come Van Aert abbia sbagliato assolutamente il movimento per andarsi a, se è andato a mettere in trappola un po' da solo, ed è un peccato perché, come vedremo, le gambe le aveva e come. Torniamo dall'altra parte della strada. Abbiamo detto di Philipsen, che aveva fatto quella sparata portandosi dietro Cavendish e gli Intermarché. Quella sparata lo porta in posizione talmente buona che Philipsen non sa più cosa fare, perché si trova tutta la strada libera davanti, ma sa bene che non può lanciare la volata così presto. Così cosa fa? Si rialza, si guarda intorno, non sa davvero dove muoversi. È un po' come se sentisse la mancanza di Mathieu van der Poel in quel momento, o comunque di un compagno che lo guidasse. Quindi anche nel suo caso forse c'è stata un'ottima scelta di lettura delle traiettorie, un po' meno di tempismo. Philipsen poi farà anche lui una discreta rimonta, perché parte dalla 15ª posizione quando scatta questa progressione travolgente di Binyang Girmay. Lui cerca di andargli dietro, ma non ha più troppo le gambe, probabilmente non riesce in alcun modo ad avvicinarsi. Quello che fa è fare il tappo a Cavendish, di fatto, che poi è stato squalificato anche lui, anche perché aveva fatto una manovra molto pericolosa in mezzo al gruppo. Devo dire, Cavendish si era riportato verso gli altri, e poi per dribblare l'ultimo uomo dell'Arkea aveva quasi abbattuto Cocard, che si è salvato solo per la sua abilità, diciamo, funambolica. Un ultimissimo dettaglio di questa volata, che, come dicevo, credo sia stata risolta all'ultimo chilometro e non tanto al colpo di reni, ma è il colpo di reni che si vede molto bene in un video che pubblica l'account Twitter del Tour, e si vede come Wout van Aert e Arnaud Demar si sfidino tra loro e facciano un colpo di reni molto bello, entrambi i colpi di reni, però come se la rivalità, la vittoria si giocasse tra loro due. Si giocava comunque un piazzamento importante tra loro due, mentre Binyang Girmay, che arriva da dietro in progressione, il colpo di reni non lo fa nemmeno, lanciato com'è, pedalando per sopravanzarli. In conclusione, sono andato molto lungo in questa lettura e vi chiedo scusa. Ma la lettura, quella buona, è quella di Binyang Girmay. Lettura invece un po' più rivedibile, quella di Wout van Aert, che aveva una gran gamba, perché credo che abbia fatto almeno 4 rilanci nel corso dell'ultimo chilometro, ma così si è trovato in condizioni difficilmente favorevoli per una vittoria. È comunque un ottimo piazzamento, considerando anche l'ostacolo che si è trovato davanti da parte della manovra sanzionata di De Mar. Due velocisti che non sono dei velocisti, perché né Binyang Girmay né Wout van Aert sono dei velocisti puri. Il velocista puro forse era Philipsen, che ci ha capito un po' meno. Oggi però, tra tutti questi, quello che meglio ha saputo interpretare la corsa era il non velocista Girmay, che a fine tappa ha ribadito che lui ci prova sempre, ci proverà sempre quando ci sono le volate, e questo secondo me però è proprio lo spirito del velocista, quello di lanciarsi a tutta verso l'arrivo. Quindi questo Tour non solo ci ha restituito un Girmay così forte e vincente e convinto e responsabile di se stesso, ma ci ha regalato anche un nuovo velocista. Grazie Tour de France, merci, au revoir e à demain.